torna in piazza perché è giusto marcare questa data così dolorosa del calendario, quella del 25 gennaio, accendendo fiaccole in tutto il paese per ricordare l'ultimo giorno in cui Giulio fu visto, diede notizie di sé il 25 gennaio del 16 al Cairo, e per protestare per l'inerzia, per l'assenza di passi avanti, per il comportamento dei due governi coinvolti, quello egiziano e quello italiano, un governo che la verità deve darla, quello del Cairo, un governo che la verità deve pretenderla, quello di Roma. Da questo punto di vista sono stati 3 anni buttati, in cui la Procura di Roma ha fatto il suo, gli altri soggetti, i due governi che ho citato in particolare, non hanno fatto quello che dovevano fare, e quindi rimaniamo con questa verità che chiamerei storica o politica, che chiama in causa le istituzioni egiziane, parlando di un delitto di Stato, alla quale non si avvicina una verità giudiziaria. E della verità storica e politica, sinceramente, non sappiamo cosa farcene. E appunto, da parte dei due governi italiani, diciamo, c'è stata proprio, insomma, un abbandono delle autorità giudiziarie che cercavano di ottenere delle risposte. Poi in realtà ci sono state anche delle dichiarazioni negli ultimi tempi, in particolare dal presidente della Camera Roberto Fico, dopo che erano stati iscritti nel registro degli indagati effettivamente 7 membri dei servizi segreti egiziani, in cui si è detto: non dialogheremo più con l'Egitto finché non avremo delle risposte. È effettivamente andata così? Per quanto riguarda l'atteggiamento del presidente della Camera, sì, da ultimo ha anche lanciato un appello ai parlamenti europei perché collaborino, si mettano insieme, uniscano le forze, però quello che è prevalso e che prevale tuttora nella strategia di 3 distinti governi è questa idea fallace che si potesse ottenere la verità per Giulio mantenendo a tutti i costi buoni rapporti con l'Egitto. Questa strategia ha dimostrato di essere inconcludente, tant'è che quando abbiamo posto fine all'unico atto, chiamiamolo di inimicizia, cioè nel settembre del 2017 è stato deciso di rimandare l'ambasciatore italiano al Cairo, e lì il segnale è stato evidente, gli egiziani l'hanno colto subito, che era più importante altro rispetto alla ricerca della verità per Giulio. Quindi, continuando insomma con questo punto sullo stato delle indagini che voi tra l'altro fate sul vostro sito e fate anche, diciamo, con continuità, al di là del supporto un po' mancato da parte dello Stato italiano e sicuramente da parte di quello egiziano, c'è stato qualche passo avanti? Il passo avanti è che dopo 3 anni continuiamo a parlare di Giulio ogni giorno, questo è un aspetto molto importante. Il rischio che avvertivamo è che più sarebbe passato il tempo e più la verità come esigenza sarebbe stata rimossa, invece non è così. Ogni giorno ci sono iniziative, Giulio continua a fare cose come dicono i genitori, i media ne parlano, però manca un atteggiamento più deciso da parte di chi potrebbe cambiare veramente le cose, e cioè questa idea che il tutto si possa sistemare mediante rapporti bilaterali ottimi non ha funzionato, non funziona, non funzionerà, e quindi ci vuole altro, come ad esempio il coinvolgimento di organi internazionali, non tanto l'Unione Europea quanto i meccanismi delle Nazioni Unite sui diritti umani, che potrebbero dare una svolta, sempre su un piano, come dire, politico, però ci sono molte vicende di crisi dei diritti umani che sono state risolte anche attraverso interventi di relatori speciali, commissioni di inchiesta e altro delle Nazioni Unite. Tra l'altro, voi subito dopo appunto la notizia della scomparsa e poi della morte di Giulio avevate pubblicato un report sullo stato dei diritti umani in Egitto, in particolare appunto sul fenomeno delle sparizioni. Ti chiederei come ultima domanda appunto di dirci un po' che cosa sta succedendo in Egitto e anche se quel report è effettivamente arrivato a degli organi internazionali o quello o comunque diciamo qualcosa di simile. Sì, le organizzazioni per i diritti umani inviano sistematicamente agli organi internazionali sui diritti umani i loro rapporti. Ovviamente se questi organismi vanno attivati è perché gli stati ne pretendono l'attivazione. La situazione dei diritti umani in Egitto è catastrofica, le sparizioni, le torture, le condanne anche per reati di opinione proseguono. Negli ultimi mesi non solo è stato lambito, ma è stato proprio preso di mira quel mondo, quella comunità di difensori dei diritti umani che ha cercato, nonostante tutti i rischi, di dare una mano sul piano delle indagini della Procura di Roma e del lavoro della legale della famiglia Regeni. Oggi l'Egitto ha un ostaggio in mano, che è Amal Fathi, la moglie del presidente della Commissione Egiziana per i diritti e le libertà, e la tiene lì con questa minaccia di riportarla in carcere, dove aspetta una condanna a 2 anni per reati di opinione, e come per spaventare e per cercare di non far più lavorare su Giulio i difensori dei diritti umani egiziani. Ho mentito dicendo che era l'ultima domanda, te ne faccio ancora un'altra, che invece tornando sull'attuale governo italiano, visto che quello che effettivamente potrebbe relazionarsi adesso, quello che abbiamo, diciamo, è un governo che in parte è composto da forze che appunto anche loro hanno criticato aspramente e pubblicamente il lavoro del delle organizzazioni per i diritti umani e delle ONG, è un governo che ha criticato anche, stiamo parlando completamente di un altro caso, ma sempre quello di una violenza di Stato che sta venendo riconosciuta, la sorella di Cookie, per esempio. C'è veramente speranza che questo governo possa cambiare qualcosa? Beh, se io non avessi speranza sarebbe inutile continuare questa campagna. La speranza c'è, è doveroso avere speranza ed è doveroso pretendere che questo governo si muova in discontinuità con gli altri. Non vedo buoni segnali, non voglio neanche fare mio lo slogan prima agli italiani, però insomma quando un italiano muore all'estero e c'è un governo che usa questo slogan, non intervenire, non chiedere la verità a qualunque costo, significherebbe dire che prima agli italiani salvo Giulio Regeni.